la nostra mattinata si apre con la rubrica Quando il Signore parla il cuore, commento sulle letture domenicali a cura di Vilma. Mostraci il tuo volto, Signore. Ecco carissimi, siamo qua nel tempo pasquale. Sapete quanto dura il tempo pasquale? Il tempo pasquale dura almeno fino a Pentecoste. È così importante il giorno di Pasqua che le prime comunità cristiane non bastava celebrarlo un giorno, no, si celebrava 50 giorni. E sapete da che cos'è caratterizzato questo tempo pasquale nei Vangeli che leggiamo? È caratterizzato dalle apparizioni di Gesù, apparizioni di Gesù ai discepoli, e Gesù è ancora sulla terra. Allora facciamo un riepilogo catechistico della vita di Gesù, perché mi colpisce tantissimo questo aspetto della vita di Gesù, l'unico che abbia un aspetto di questo genere. Dunque, le tappe della vita di Gesù sulla terra si possono suddividere in quattro. La prima tappa, i 30 anni di vita nascosta a Nazareth, La seconda, i 3 anni di vita pubblica. La terza tappa, i 3 giorni di vita sofferente, e qui possiamo fare un parallelismo un po' con la nostra vita, no? Queste tappe le incontriamo anche noi, la maggior parte vive vita nascosta, Vita nascosta però preziosissima agli occhi del Signore. C'è chi vive anche la vita pubblica, chissà che non ci sia qualche politico all'ascolto, non si sa mai. Saluto il mio amico senatore, se per caso ascolta. E poi la vita sofferente. A chi non capita prima o poi la vita sofferente? Ma le tappe della nostra vita finiscono qua. Dopo la vita sofferente si muore. Per Gesù c'è un'ulteriore tappa sulla terra, tappa che non spetta proprio a nessun uomo, nessuno dei miliardi che ci hanno preceduto, nessuno dei miliardi che ci seguiranno avrà mai questa tappa di vita sulla terra che ha avuto Gesù. Gesù, dopo morto, è saltato fuori dal sepolcro ed ha vissuto ancora 40 giorni sulla terra da risorto. Viveva sulla terra, ma era una vita assolutamente non terrestre, Non viveva da terrestre, no, cioè non voglio dire che vivesse da extraterrestre, per carità, e viveva da uomo celeste, con delle prerogative assolutamente straordinarie. Appariva, scompariva, appariva quando voleva e scompariva quando voleva. Bastava volere, ecco, vedete la padronanza assoluta, la signoria della volontà, delle facoltà spirituali sulle facoltà corporee. Sarà così anche per noi nella vita gloriosa. Viaggeremo alla velocità del pensiero. Basterà desiderare essere in un posto e ci saremo. E Gesù, quando voleva apparire, appariva, quando voleva scomparire, scompariva, e a volte scompariva. Dunque abbiamo il Vangelo che vi leggerò adesso è il proseguimento del Vangelo dell'apparizione ai due discepoli di Emmaus, no? Questi poveri discepoli tutti scoraggiati, che camminano da Gerusalemme, da Emmaus a Gerusalemme, delusi, con questa delusione cocente nel cuore. Si affianca loro un pellegrino e non lo riconoscono, non alzano neanche gli occhi per guardarlo in volto, non interessa proprio, sono talmente affranti da tutto quello che era successo, e camminano dunque da Gerusalemme a Emmaus. Ci sono 7 miglia, 7 miglia equivalgono a 11 chilometri, quindi camminano fisicamente, ma hanno fatto anche un cammino interiore, perché passano da delusione cocente, quasi disperazione, quasi ormai, ormai, speravamo, ma ormai, parolaccia mai, da non dire mai nel cammino di fede. Il Signore può ribaltare tutto in qualsiasi momento, non esiste l'ormai per noi che camminiamo nella fede. E invece loro erano proprio nell'ormai, ormai, non speriamo più. Quindi passano da questa, come dire, da questa delusione cocente al riconoscerlo. Ma il Vangelo di Emmaus, che era quello precedente, è quello che precede. Il brano di Vangelo è un tutt'uno nel Vangelo, ma la liturgia ne prende dei brani. Quindi il Vangelo di oggi, secondo Luca, segue immediatamente quello dei discepoli di Emmaus, no? E dice che quando si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, lui sparì dalla loro vista. Ecco, appare e scompare quando vuole, e ormai loro l'avevano riconosciuto, poteva anche scomparire, no? E quindi il Vangelo dice: in quel tempo i due discepoli che erano rimasti a Emmaus narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ecco, ecco, vedete, è il seguito immediato dell'apparizione a Emmaus. Allora, Gesù ribadisce, già l'altra volta l'avevamo visto, questo augurio di pace. Pace a voi, che erano sconvolti e pieni di paura. Allora, segno dello Spirito Santo, sapete qual è? Un segno che abbiamo lo Spirito Santo, sapete qual è? È la pace. Ma la pace, quando va tutto bene, ce l'abbiamo. Quando siamo nella prova, nell'incomprensione, nella difficoltà, e sperimentiamo la pace, allora è veramente segno che abbiamo lo Spirito Santo. Gli apostoli erano in quello stato d'animo, erano in quella situazione, sconvolti, pieni di paura, spaventati, e Gesù dà loro la pace in quella situazione lì, Quindi che ci sia pace quando tutto va bene è naturale, che ci sia pace quando niente va bene è prova che c'è lo Spirito Santo, è prova che c'è il risorto nella nostra vita, è prova che viviamo da risorti, e la risurrezione è proprio quella che orienta, senza risurrezione la nostra vita sarebbe inesorabilmente orientata al suo giorno di tramonto, ma così valica la morte. Non possiamo più vivere come se non fossimo risorti. La morte è sconfitta, eh? Se no si comprende parte della letteratura del Novecento, come diceva un mio amico prete, che approda al nichilismo. Il nichilismo vuol dire che il nichilismo è una parola che viene dal latino, significa nulla, ma si traduce per un traduco in un termine molto comprensibile, che si sente soprattutto nei giovani. Questo nichilismo, quando entra nel pensiero comune, sapete in che esclamazione si trasforma? Si trasforma in "ma che schifo la vita". E questo è il nichilismo, eh? E purtroppo questo è il segno che non si vive da risorti, che non si crede nella risurrezione. Ma allora ricordiamo questi discepoli che erano in cammino, eh? Erano in cammino. Gerusalemme a 7 miglia da Gerusalemme, quindi 11 chilometri da Gerusalemme. Allora, Emmaus è qui, Emmaus è lì dove siete, ognuno di voi all'ascolto. Cos'è Emmaus? Emmaus è il cammino. Noi qui siamo in pellegrinaggio, non siamo a dimora fissa, eh? Siamo in pellegrinaggio, siamo a 7 miglia, siamo a 11 chilometri da Gerusalemme. Cos'è Gerusalemme? Gerusalemme è la Gerusalemme celeste. E stiamo percorrendo questo tratto di strada, eh? E dobbiamo prendere come modello questi discepoli Emmaus, e poi gli altri a cui i due sono andati ad annunciare che avevano incontrato il Signore, eh? Avevano incontrato il Signore. Questi discepoli di Emmaus non hanno riconosciuto Gesù, e pensare che ha camminato tutto il giorno con loro. Pensate, nel brano appena precedente a questo c'è scritto che Gesù ha camminato tutto il giorno con loro fino a sera, spiegandogli le scritture e tutto quello che lo riguardava. Ma vi rendete conto che questi discepoli di Emmaus hanno avuto un corso di cristologia accelerato, il primissimo fatto da Gesù in persona? Lui non aveva bisogno di studiare la cristologia per fare il corso di cristologia. Ma pensate che... E il corso è durato tutto il giorno, perché ha camminato con loro fino a sera. Allora io, leggendo questo brano, mi dicevo: ah, ma perché non l'hanno messo per scritto questo corso di cristologia fatto dal maestro in persona? Accidenti, potevano metterlo per scritto e così avremmo avuto un documento di un valore inestimabile. E mi sono anche chiesta, mi sono fatta questa domanda: ma perché Gesù non ha scritto niente? Cioè, sì, ha scritto una volta sulla sabbia, ma insomma, sulla sabbia basta il vento della sera che tutto viene cancellato. Perché Gesù non ha scritto niente? Sapete qual è la risposta? Perché il Verbo si è fatto carne, non si è fatto scritto. La parola si è incarnata ed è vivo e vuole essere presenza. Non gli basta essere parola, ma neanche a noi non basta la parola, a me non basta leggere la parola di Dio. Ho bisogno che questa parola di Dio mi porti alla presenza viva del risorto nella mia vita. La parola si è fatta carne, e quindi della parola fatta carne, della presenza, devono scrivere altri. Hanno scritto gli evangelisti, hanno scritto milioni dopo di loro, ma lui è la sua presenza che conta. A lui interessava essere presente nel cuore dei discepoli, che lo percepissero vivo e camminante con loro, insomma, camminava con loro e l'hanno riconosciuto all'aspettare il pane. Allora, quand'è che noi, quindi siamo noi che stiamo camminando da Emmaus a Gerusalemme, e quand'è che non riconosciamo il Signore? Quanti Emmaus abbiamo avuto anche noi nella nostra vita? E quand'è che non riconosciamo il Signore? Non lo riconosciamo, siamo convinti che non sia presente nella nostra vita. Infatti nel Vangelo di oggi sconvolti e pieno di paura credevano di vedere un fantasma. Quante volte per noi il Signore è un fantasma, ma lui, per dissipare ogni dubbio sul fantasma, disse: perché sorgono dubbi nel vostro cuore, guardate le mie mani, i miei piedi. Ma non gli bastò questo, chiese addirittura da mangiare. Adesso io, che io sappia, non ho mai saputo che i fantasmi mangino, quindi mostrando che mangiava è stata la prova irrefutabile che non era un fantasma. Ma allora, noi non lo riconosciamo quando siamo convinti che non è presente, e diciamo: ma chissà, ci sarà, ma magari a volte preghiamo, diciamo: ma ci sarà qualcuno che dall'altra parte mi ascolta, Dio mi ascolta, abbiamo anche noi questi dubbi e ci facciamo queste domande. Ma per riconoscerlo veramente, cosa deve esserci? Ci deve essere qualcosa in più, cioè ci deve essere qualcuno in più. Quando i discepoli l'hanno riconosciuto, adesso qui parlo dei discepoli di Emmaus, quando l'hanno riconosciuto c'era una terza persona in mezzo a loro, non c'erano solo loro due. Sapete chi c'era? C'era lo Spirito Santo. Lo riconosciamo sotto l'azione dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo abbiamo a volte, come dire, l'impressione fugace che ci sia, ma pensiamo, anche lì abbiamo, come dire, dei preconcetti, no? Pensiamo che ci sia quando abbiamo delle forti esperienze del fervore, devozione, eccetera eccetera. Ora c'è un brano di San Paolo che dice, e mi ha colpito tanto questo: lo Spirito geme in voi con gemiti inesprimibili, per cui lo Spirito si manifesta anche quando noi gemiamo. E qui i discepoli di Emmaus gemevano veramente, e qui gli altri discepoli, che erano sconvolti e pieni di paura, gemevano veramente. Allora, quando noi gemiamo, è lo Spirito in noi che geme con gemiti inesprimibili. Pensiamo che non ci sia, e invece è Lui che c'è, ci prende, ci pilota. E ci pilota verso cosa? E ci pilota verso la volontà del Padre. Da soli saremo incapaci di fare questa volontà del Padre. E a volte effettivamente poi lo Spirito fa come Gesù, ci fa sparire i muri, ci fa sparire il tetto, ci dà veramente l'evidenza, a volte tocchiamo con mano che siamo nell'ebbrezza dello Spirito. Ma quando capita quello, non facciamo lo sbaglio di attribuire a noi il contatto. Non sono le nostre tecniche, non è il nostro fervore che stabilisce il contatto, ma è Lui che irrompe nella nostra vita. Come si fa ad agganciare Dio? Lo aggancia lo Spirito. Arriva lo Spirito e si crea subito il contatto, si crea subito questo contatto. Quindi lo Spirito si manifesta in tanti modi, anche nei gemiti. Quindi non temiamo che quando siamo nei gemiti siamo sprovvisti di Spirito Santo, no, ce l'abbiamo anche allora. E poi una cosa che mi ha colpito in questo Vangelo è questa: quando Gesù dice, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Quando ero ancora con voi, ma adesso dov'è mentre sta dicendo questo? È ben con loro. Riflettendo su questa frase misteriosa mi sono detta: qui c'entra il corpo glorioso. Gesù adesso è con loro, ma in una dimensione completamente diversa. Non è più un corpo soggetto alla corruttibilità, è un corpo glorioso, per cui non è già più con loro, appartiene già all'escatologia, al regno dei cieli, appartiene già al regno glorioso. Quindi quando ero ancora con voi si riferisce a prima della morte, prima della risurrezione. E i segni di questo corpo glorioso si vedono, perché Gesù appare sempre splendente. Sono sparite tutte le trafitture, i segni delle percosse, dei colpi. Sono rimasti solo i segni dei chiodi nelle mani e nei piedi, ma tutto il resto è scomparso. Questa è prerogativa di corpo glorioso, perché sapete, San Tommaso d'Aquino, quando analizza le proprietà dei corpi gloriosi, che sono stupende, i nostri corpi gloriosi, no? Dice che quando risorgeremo, in quel misteriosissimo ultimo giorno, mamma, suoneranno le trombe, i morti risorgeranno, e lì ci sentiremo. Chissà come la nostra polvere ritroverà la nostra identità, risorgerà. Ma io credo che il Signore pronuncerà il nome di ognuno di noi, e allora dalla nostra polvere sorgerà di nuovo la nostra personalità, il nostro corpo glorioso sorgerà. Ma allora, questo corpo glorioso sarà nello stato più perfetto, nella piena giovinezza, nella piena possessione di tutte le sue facoltà, anche delle sue, per esempio, che so, uno che in vita fosse stato handicappato, che gli fosse mancato un arto, nella vita gloriosa avrà completamente il corpo perfetto. Ecco, e Gesù qui si riferisce al passato, mentre è lì, quando ero ancora con voi, io ho detto questo, quando ero ancora con voi, e quindi vedete questo cammino che hanno fatto i discepoli di Emmaus, è questo cammino che dobbiamo fare anche noi, che dobbiamo convertirci alla gioia, riconoscere il Signore presente nella nostra vita, non crederlo lontano fuori dal nostro orizzonte, non pensare che sia nell'alto dei cieli, sia chissà dove, e non si occupi di noi. Il nostro Dio non è un Dio che non si occupa dell'uomo, questo è il Dio dei filosofi. I filosofi greci, per loro era impensabile che Dio si abbassasse, si sporcasse le mani ad occuparsi dell'uomo, ma noi no, il nostro Dio è Padre. Allora chiediamo al Signore di saperlo riconoscere ogni volta che passa nella nostra vita. Devi saperlo riconoscere, sapete quando è difficile riconoscerlo? Riconoscerlo nell'esperienza interiore è anche facile. È difficile riconoscerlo nel prossimo, soprattutto il prossimo antipatico, che ci scoccia, va a sapere. È lì, eppure c'è. Allora dobbiamo chiedere la grazia di saperlo riconoscere in ogni fratello che incontriamo. E chissà quanti Emmaus ci sono stati anche per noi. Ognuno di noi potrebbe enumerare tutti questi Emmaus dove lui ha attraversato la nostra vita, ha incrociato i nostri passi e ci ha rivelato il senso del nostro andare e del nostro cercare, e ci ha dato un nuovo coraggio per riprendere il cammino. Ma sapete, ogni giorno c'è il luogo dell'incontro dove lui ci aspetta per rivelarci questo amore, per rinnovare i prodigi del suo amore per ognuno di noi, per rivelarci il suo progetto. Sta a noi riconoscerlo e scoprire la fiamma che lui aveva già acceso nel nostro cuore. Ecco, allora adesso passiamo ai compiti. Dunque, siete stati bravissimi, vi avevo fatto una domanda da catechismo, pensavo che l'avreste tutti sbagliata, e invece pochi l'hanno sbagliata. Quale sacramento ci dà il battesimo? Ero convinta che tutti avreste risposto quale sacramento ci dà lo Spirito Santo? Ero convinta che avreste tutti risposto la cresima, e invece avete risposto il battesimo. Tutti ci danno lo Spirito Santo, però non riceviamo né il battesimo. Vi ho fatto questa domanda perché erano venute delle ragazze che devono fare la cresima adesso a maggio, no? E quando ho chiesto loro in che sacramento ricevessero lo Spirito Santo, cioè neanche loro mi hanno detto, come catechiste mi hanno detto, la cresima, no, l'avete ricevuto al battesimo, se no non potreste neanche fare la cresima, se non aveste già ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo. Ecco, dunque, bravissimi. Allora, adesso vi do le domande per la settimana prossima. Una tratta dalla prima lettura, Atti 4:8, Atti degli Apostoli. Pietro parla di Gesù e come lo definisce? Seconda domanda dal Vangelo, Giovanni 10:11. Gesù cosa dice di essere? Terza domanda. Gesù dice che il Padre lo ama, ma dice anche il perché. Perché il Padre lo ama? Ecco, carissimi, è vero che il mio tempo si sta avviando verso la conclusione. Allora, mi potete rispondere. Dunque, c'è il nuovo sito www.quandoilsignoreparlaalcuore.it, lì trovate le domande, potete rispondere. La mail è vilma@quandoilsignoreparlaalcuore.it e poi ci sono anche i libri. A me personalmente piace molto avere i libri sotto mano, che così me li sfoglio, vado avanti e torno indietro, che mi potete richiedere per ogni meditazione del Vangelo domenicale. C'è il libro, quello di quest'anno, anno B, si intitola Risplenderemo come stelle, e me lo potete richiedere a questo numero 338 75 53 847. Ecco, carissimi, allora io vi saluto, vi auguro buon cammino verso Gerusalemme, col cuore ardente e col Signore che cammina con voi. Ciao a tutti, ci sentiamo sabato prossimo alle 8:55. Abbiamo trasmesso Quando il Signore parla al cuore, commento sulle letture domenicali a cura di Vilma.